Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Amici di Blu Radio Veneto, anche oggi l'appuntamento che ritorna insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Do il saluto caloroso e anche quasi natalizio al presidente Carlo Garofolini. Benvenuto Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. E se da una parte sotto l'albero normalmente ci sono le sorprese, speriamo belle, di qualche nostro parente che ci vuole dare un regalino, ci sono i comuni che invece i regali non ce li portano, ma ci portano le gabelle. Purtroppo sì, siamo a Natale e purtroppo sappiamo che dicembre è un po' per eccellenza il mese delle scadenze, e oggi siamo qui a ricordare come il 16 dicembre, lunedì prossimo, sarà l'ora di saldare la tassa relativa all'IMU e la TASI, di cui penso la maggior parte degli ascoltatori hanno avuto la sventura di doverla pagare a ottobre la prima rata. Anch'io l'ho pagata e l'ho divisa in due parti perché mi sembra che sia meno doloroso, insomma, l'esproprio. E quindi anch'io in questi giorni mi devo ricordare questa cosa. Sì, dividere a due parti penso che sia stata un po' la scelta che hanno fatto tutti, anche perché oltre a renderla meno dolorosa c'è sempre la speranza che magari qualcosa entro fine anno possa cambiare, ma purtroppo ormai gli ascoltatori sapranno tutti che bisogna aspettare le promesse delle campagne elettorali per avere la speranza di non pagare qualche tassa, perché poi una volta che si insediano ormai sappiamo come va a finire. Per quanto riguarda l'IMU e la TASI, abbiamo detto la scadenza del 16 dicembre, è un saldo sia per quanto riguarda l'IMU che per quanto riguarda la TASI, che il prossimo anno poi sembrerebbe che fosse già deciso, verrà accorpato in un'unica tassa che si chiamerà local tax, tanto per fare un po' ancora più confusione. E ricordiamoci che è stata pagata per la maggior parte dei comuni ad ottobre, alcuni senza aver deliberato nulla a luglio, che però sostanzialmente per chi non ha particolari variazioni in questo ultimo periodo deve sapere che sostanzialmente va a pagare quello che è stato l'analogo importo pagato nella prima rata, perché sostanzialmente il saldo non sarà altro che il 50% della rimanenza di quanto dovremo o abbiamo pagato. Ecco, poi se invece uno ritarda deve fare i calcoli dell'eventuale mora, no? Sì, a parte che normalmente in quest'ambito chi cade in confusione sono normalmente chi acquista le case nuove in questo periodo, che deve sapere che rimane sempre valida la rivalutazione del 5% e poi moltiplicare per 160 sia l'abitazione che le pertinenze, questo per quanto riguarda la TASI, mentre lo stesso per quanto riguarda l'IMU. Quello che è importante dire per chi magari non l'ha pagata, non c'è una regola precisa, ma le detrazioni variano proprio a seconda del comune, per cui non c'è una regola fissa in cui si prende la rendita catastale, si toglie una detrazione, si calcola il numero di figli eccetera. Qua bisogna proprio contattare il comune, leggere se delibera o andare nel sito e capire, perché ci sono comuni che non hanno applicato detrazioni e hanno mantenuto un'aliquota minima, altri che invece le hanno applicate ma hanno fatto un'aliquota che varia a seconda della fase di reddito e via dicendo. E poi c'è, per quanto riguarda invece la novità di quest'anno, riguarda chi è in affitto, che normalmente se il contratto dura più di 6 mesi nel corso dell'anno, la persona che si trova in affitto dell'immobile dovrà pagare una quota variabile tra i 10 e 30% del contributo calcolata, mentre la rimanenza parte è del proprietario. Ricordiamoci che il proprietario è tenuto a pagare la sua parte e non ha nessun problema se l'inquilino non paga, perché poi sarà comune a rivalersi su chi non l'ha fatto, cosa che magari molti ci hanno contattato all'Adico perché avevano paura che magari qualcuno si viene arretrato e non ha i soldi per pagare l'affitto, non sia nella condizione magari di pagare la TASI. Ecco, quindi il proprietario, se l'inquilino magari non ha i soldi, non paga, poi non si vedrà addebitare cose che non gli spettano di fatto, questo è da segnalare. Di fatto è così, per cui può stare tranquilla. Questa era una delle domande più frequenti che come Adico ricevevamo proprio anche sullo sportello, sfratti e condominio. Ricordiamoci che per pagare bisogna a compilare l'apposito modello F24 e quindi anche qui c'è una scocciatura che dopo una volta aver effettuato i calcoli bisogna andare in banca. C'è una piccola variazione per quanto riguarda i terreni agricoli in collina, che tutti i terreni sono esenti dall'imposta se si trovano ad un'altezza superiore ai 600 metri, mentre i terreni che si trovano a una quota superiore di 280 metri dal livello del suolo è riconosciuta solamente quando il proprietario è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo, mentre non rientra nella categoria, quindi tutti gli altri, quindi sono tenuti a pagare da 280 ai 600 metri. Quindi immagino che chi è in pianura paga e chi invece metà in collina, metà no. Che strana questa cosa. Sì, una cosa strana. Ricordiamo che al di là della fisica dell'altitudine, appunto, superiore a 600 metri non si paga, inferiore bisogna essere iscritti quindi agli albi dei coltivatori, appunto degli agricoli. È una cosa strana, anche noi ogni volta che leggiamo questa norma scopriamo sempre qualcosa di nuovo, qualche curiosità. Poi, come per esempio, è importante, anche questa è una cosa che molte persone si erano rivolte a noi chiedendo, appunto, nel caso che la prima casa è data in comodato d'uso ai figli o nei casi degli anziani che sono in casa di cura e per cui non vivono più sulla prima casa, perché ricordiamoci che la TASI si paga solo sulla prima casa, mentre l'IMU sulla seconda casa, e la prima casa è l'abitazione in cui normalmente una persona dichiara la residenza. E certamente un figlio non paga sulla seconda, paga la TASI, o una persona è esente da pagare l'IMU sulla seconda casa se la data ha accomodato a un figlio, purché il figlio ha una rendita ISEE, una dichiarazione del reddito ISEE inferiore a 15.000 euro, oppure se la rendita catastale dell'abitazione è inferiore a 500 euro. Se avete dubbi potete rivolgervi anche proprio all'Associazione Difesa Consumatori. Il sito associazionedifesaconsumatori.it e poi ha tutti i numeri di telefono, gli orari con le modalità per contattarvi e avere ulteriori specifiche. Grazie quindi a Carlo Garofolini, presidente dell'ADICO. L'appuntamento è rinnovato alla prossima settimana. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci in collaborazione con ADICO, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.